X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Pierluigi Bersani, 62 anni, emiliano, sposato con due figlie. Da piccolo ha contestato il parroco della sua parrocchia per la scelta che faceva nell'uso delle offerte dei fedeli. Poi è stato uno degli angeli del fango che ha salvato a Firenze le opere d'arte dall'alluvione. Presidente della Regione Emilia dal 93 al 96, è stato segretario del PD dal 2009 al 2013. Adesso i suoi collaboratori Stefano Di Traglia e Chiara Geloni hanno scritto un libro, Giorni Bugiardi, sulle primarie, le elezioni e il Quirinale, un libro appassionato che ruota intorno a lui. Ecco, onorevole Bersani, tutto vero quello che c'è scritto? Ma i fatti sono tutti veri, poi forse diciamo io non sono così perfetto come mi hanno descritto loro, sì, ma non posso rimproverargli l'affetto. Senta, ma lei cosa avrebbe fatto come segretario adesso di fronte allo scandalo delle tessere? Epifani ha sbagliato? Ma lì hanno sbagliato, diciamo, un po' tutti. L'altro giro, l'altra volta, non si fece così. Si chiuse il tesseramento un mese, due mesi prima dell'ultimo giorno. Era quello da fare. Senta, sulla Cancellieri, lei avrebbe votato come dice Renzi, abbiamo sentito nel giornale radio? Ma mi pare quella di Renzi l'affermazione un po' troppo facile, che peraltro non gli ho sentito fare così nettamente nei giorni scorsi, no? Perché davanti a scelte di questo genere bisogna prendersi anche le responsabilità. E lei se la sarebbe presa? Io me la sarei presa. Di votare per la Cancellieri, perché la Cancellieri continuasse, insomma. Senta, nonostante, intendiamoci, lei stessa ha riconosciuto che è stato un'inappropriatezza in quella vicenda, assolutamente, ma credo che la spiegazione dei fatti ci metti in condizione di dire che può continuare il suo lavoro. Certo. Senta, onorevole Bersani, il suo slogan elettorale, dobbiamo smacchiare il giaguaro, è una battuta di Crozza. Non è il mio slogan elettorale. Ma è più o meno diventato anche uno slogan. Il mio slogan era legalità e lavoro e governo di cambiamento. Però quella si era ricorda, una battuta. È una battuta che è diventata battuta più forte. Ma cioè, le piace quella battuta? Le piace? Beh, era una bella battuta, sì. Poi Crozza ne inventa. Sì, ma non è che le ha, insomma. No, che poi abbia portato bene, dice lei. Vabbè, lo ma vedremo. Non è detto, ecco. Non tutte le battute portano bene. Se non è che siamo di nuovo la meravigliosa macchina da guerra di Achille Occhetto. Ma no, l'intenzione non è quella, anche perché poi alla fine, insomma, qualcosa si è fatto. Una sbacchiatina, come sostengo io, non è che non ci sia stata. Senta, però la smacchiatona, alla fine, il giaguaro che gliel'ha data lei, dura da accettare? No, semmai a me l'ha data Grillo, non l'ha data Berlusconi, magari un effetto ottico. Anzi, io dico che, per esempio, noi non avremmo avuto una giunta per regolamento al Senato in grado di far rispettare legalità e non fare norme ad persona se poi avessimo perso davvero, come si dice. Intendiamoci. Quindi continua a pensare di aver vinto? No, non penso di aver vinto, ma non penso di aver perso nella misura in cui qualcuno dice. Senta, tutti però comunque pensavano a una vittoria facile. Dove è stato il vero errore? Guardi, l'errore è stato non staccare la spina al governo Monti quando la staccò Berlusconi. Naturalmente, bisognava però nel PD c'erano Montiani molto spinti. E l'altra cosa poi riguarda e dove me, sono insomma, finiti i Montiani spinti? Adesso dove sono? Ma a fare le pulci a me. Ma ancora. Quindi quello è stato l'errore. Ecco, Crozza l'ha imitata all'infinito, l'abbiamo detto, ma alla fine... Sul serio, è stato un amico o un nemico? Cioè, è una cosa che alla fine è servita oppure no? Ma non lo so, ditelo voi. Vabbè, che senta questo collage, questo collage divertente. Noi non abbiamo vinto, ma siamo arrivati primi. Io non abbandono la nave. Posso starci da capitano, posso starci anche da mosso. Qualunque posto mi metti, però ragazzi... L'iceberg comunque io non lo vedo. L'altro giorno mi sono lanciato nella previsione, ragazzi. Ho detto, qua bisogna parlare chiaro. O vincono loro o vinciamo noi. Ho azzeccato solo la O. Senta, ma è più Bersani di lei, Crozza. Ma insomma, io ho sempre detto che concepisco una politica che si lascia prendere in giro, perché credo che questo comunque non inibisca il fatto che la politica possa essere rispettata. Quindi io non ho grandi obiezioni da fare a Crozza. Bene. Non so se mi abbia fatto bene o male. Senta, adesso comunque sembra che lei voglia smacchiare il governo Letta. Ha detto non fa cosa dovrebbe. No, esattamente cosa vuol dire? Credo che Letta non abbia più leale sostenitore di me in giro. Io sto dicendo quel che ho sempre detto, che un governo di larghe intese può servire quando c'è da combattere l'inflazione, il terrorismo, lo spread, ma se c'è da dare una riscossa al paese non è la formula. Ora qui siamo in un governo di transizione, di necessità, che sarà a scadenza, come ha detto lo stesso Letta, bisogna sostenerlo lealmente, però bisogna tenere aperta una prospettiva di cambiamento. Sì, però diciamo, voglio capire, questa è larga intesa, mi sembra di capire, dato che non fanno quello che dovrebbe, quelle cose per cui ha senso, praticamente meglio la crisi. No, adesso intendiamoci, adesso Crozza qui mi beccherà ancora la botte dal vino che ha, come si dice. Il governo di larghe intese risponde anche degli equilibri, però cioè, ha una non può far niente il governo di larghe intese. No, non è vero che può mettere in sicurezza la finanza, può cominciare a fare qualche politica per riavviare un po' la ripresa, dopodiché riforme. Diciamo che abbiano un senso compiuto, è difficile. Senta, che riesca a farlo. La Cabuzzo dice che questo è un governicchio, non un governo. Lei dice che è un governo o un governicchio? No, è un governo in condizioni difficili. Faccia dire una parola su Letta. Letta non se l'è cercata sta cosa. È una persona per bene, una persona capace, sta facendo il suo lavoro in una situazione molto molto difficile, quindi io gli sono assolutamente leale. Comunque sembra confuso un po' il governo, l'Istat dai numeri, il ministro Saccomandi ne dà opposti sulle previsioni di crescita. Lei crede a uno o a chi dei due? Vedrà che finisce nel mezzo fra Istat e Saccomandi. Senta, Alfano dice che la seconda rata dell'IMU non si paga perché i soldi sono stati trovati, ci saranno? Io credo anch'io che la seconda rata dell'IMU non sarà pagata, so che i soldi li stanno cercando. E li troveranno. Spero che Alfano abbia qualche informazione più di me, ma non ne sono sicuro. Ecco, potrebbero chiedergli a Passera, perché senta cosa mi ha detto lunedì scorso annunciando la sua discesa in campo. Ecco, ma nell'insieme questa qui è una legge che favorisce o deprime lo sviluppo? Beh, non lo aiuta, quindi non lo favorisce. Quando per così tanti anni si va giù, Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi. A gennaio Passera mobilita 200-300 miliardi. Beh, dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. A gennaio abbiamo risolto allora? Ci riposiamo a gennaio. Lei ci crede? No, sono buone notizie. Ci crede? No, aspetto speranzoso, ma non troppo. Senta, però più o meno, a parte sulla cancelliere, quello che ha detto fino adesso sul governo, potrebbe averlo detto anche Renzi più o meno, no? Boh, non lo so, io voglio credere che gli sia appunto leale questo governo, anche se vedo sempre giorno dopo giorno una qualche punzecchiatura postuma su quello o quell'altra scelta, insomma sono cose che non fanno bene, che sempre non ci prendiamo tutti dice la responsabilità o se no insomma è troppo facile. Senta, lei voleva il partito solido, adesso c'è questo partito fast food che sta provocando quello che abbiamo detto prima, è un passo indietro allora secondo lei? Ma certo, qualche motivo di preoccupazione c'è, perché questi fatti, seppure adesso non bisogna esagerare la portata, però questi fatti lasciano intendere che insomma si è fatto un passo verso in direzione di un partito che non voglio definirlo liquido, ma di un partito che perde, diciamo, la consistenza della sua comunità e si apre in modo anche pericoloso a influenza esterna. Senta, Letta era il suo vice segretario quando lei ha tentato di fare l'accordo con i 5 Stelle, lo sta difendendo, ma era d'accordo con lei quando voleva fare l'accordo con i 5 Stelle? Abbiamo fatto tutto assieme, non parlerei, ripeto ancora una volta, d'accordo. Io ho chiesto solo, diciamo così, una desistenza, la possibilità di far partire un governo di cambiamento, non è che volessi fare un patto con Grillo. Abbiamo fatto tutto il percorso assieme, quando è stato ora di fare il governo delle larghe intese, ecco, io avevo detto che non l'avrei fatto. Ecco, ma quando ha cambiato lui idea, si è caricato. No, non è cambiato idea, abbiamo deciso assieme. Anch'io ho chiesto a Letta di caricarsi lui di questa cosa, non era nelle mie corde. Cioè, è Napolitano che ha scelto Letta invece che lei, sostanzialmente. No, sì, però io avevo detto che io non lo facevo il governo di larghe intese, adesso lo sostengo lealmente, ma non era nelle mie corde. Senta, quindi Letta lo ringrazio di essersene caricato. Lei per fare il governo le ha provate tutte, abbiamo letto, anche col dentista di Grillo. Cosa voleva dal dentista? Ma no, ma siccome la mia cosa era, insomma, questa gente qui che ha preso il 25%, o si ingaggia in qualcosa, sì, o deve pagare un prezzo. Ma lei non riusciva a parlare, non di questo riusciva il parlare, punto. Non si riusciva mai a parlare, con né nessuno. Incontri fra i gruppi, né trovare cose, eccetera. E quindi, con tanta gente di buona volontà, non neanche su diretta mia iniziativa, si sono messi di mezzo per cercare di favorire questo incontro, ma insomma, Grillo dentista, è stato tetrago. Sto dentista non è bastato. Evidentemente in quel periodo non aveva mal di denti, quindi non l'ha frequentato. Senta, l'incontro in streaming con i 5 Stelle per tentare di convincerlo rifarebbe? Assolutamente sì, perché ho mostrato in quel che anche se mi hanno criticato eccetera che loro erano gli arroganti. Io ero il disponibile. Ma secondo lei oggi le cose andrebbero così o in un altro modo? Andrebbero in un altro modo. È convinto di questo? Sì, non riuscirebbe non a fare il governo con i 5 Stelle? No, io non frego. Io proponevo un governo nuovo nella sua composizione. No, ma dice andrebbe, non andrebbe nello stesso modo perché? Non andrebbe nello stesso modo perché ci abbiamo messo del nostro in quella vicenda, dico come PD, quando noi siamo venuti meno al nostro dovere nella fase dell'elezione del Presidente della Repubblica, fosse andato diversamente lì, secondo adesso me andava diversamente anche adesso la ne parliamo del governo. Ecco, lei ha detto che bisogna rischiare il consenso di oggi in nome del consenso di domani. Mi dice tre cose che ha fatto in questa direzione rapidamente. Ne posso dire 20. No, mattino, ma bastano tre più importanti. Vabbè, insomma, il mattino che si sveglia uno non ci sono più le licenze del commercio, è chiaro che mi hanno rincorso in tutta Italia. Ma però dopo si è capito, no? È così per tutte le riforme che ho fatto, dal sistema elettrico a tempo, quando ero in regione. E per me è un modo di governare che deve essere, il modo di governare deve sorprendere, deve mettere in equilibrio instabile se vogliamo riprendere un po' di fiducia, un rapporto fra politica e società, se no se non si rischia mai niente, certo. non viene neanche la stima, la credibilità. Senta, ma in questo rischio che lei ha preso come segretario di nominare Presidente di Camera e Senato vanno nella direzione delle cose innovative e rivoluzionarie? Sono rivoluzionario, io mi faccio usare questa parola. Certamente si esprimeva allora un'esigenza, si sono viste le elezioni, no? Un'esigenza insomma, di nuovi stadi. È soddisfatto di questa scelta che ha fatto? La scelta è stata giusta, poi si può sempre migliorare, no? Cioè, migliorare bisogna farli dimettere per migliorarla. No, ma io devo migliorare. Ah, lei deve migliorare, poteva fare pensarci ancora un momento. Ecco, no, alla RAI, per esempio, lei ha nominato giudice Gherardo Colombo, la figlia di Walter Tobagi, il consiglio di amministrazione. Ecco, sono nomi che l'hanno qualificata nella società civile. Ma no, credo che diciamo sono nomi che spero abbia reso chiaro che io non intendo metter becco direttamente in un meccanismo di governance della RAI che non può stare in piedi. Non so quanti anni è che lo dico, e lo dicono in tanti, ma continua, però, sì. Ha ragione, però. Ecco, è così. Ma questa società civile che comunque lei ha inseguito, alla fine l'ha trovata? Ma diciamo, se usciamo diciamo dal cliché e ci riferiamo alla gente normale che era fuori dalla politica, ad esempio queste primarie per i parlamentari sono hanno avuto segno. Degli scompensi, certo, però hanno portato un sacco di... Noi abbiamo il 40% di donne adesso. Allora è questa che la sono società state, civile che intendo sono state io, elette veramente. È state elette veramente. Senta, a proposito di politica e media, però la sinistra contro Berlusconi ha scelto per molto tempo in qualche modo la strada dei talk show che spesso controlla. È stata una grande scelta oppure una scelta sulla quale è meglio riflettere? È meglio riflettere, è molto meglio riflettere. Perché? Ma se guardiamo in giro per il mondo il meccanismo dei talk show non c'è da nessuna parte, siamo solo noi, quindi c'è qualcosa lì da insomma riflettere, distruggono la politica i talk show. Ma sì, diventa a maggior gloria del conduttore mediamente, no? Senta, comunque i media sono più forti della politica, oramai è chiaro. Spesso invece di raccontarla la determinano, è vero, no? Spesso è verissimo, è vero un po' ovunque, è tre volte vero in Italia perché noi usciamo dal muro di Berlino da allora con una politica troppo debole. E questo dà l'impressione ottica, l'effetto ottico che i media siano troppo forti. Ecco, per esempio, per quello che vi riguarda, si dice che il partito di Repubblica sia più forte della segreteria del PD che non sopravvive alle sue ostilità. È una leggenda metropolitana o c'è qualcosa di vero? Ma insomma, qualche elemento c'è, però non la direi così secca. Almeno nella mia esperienza di 4 anni ho cercato di essere abbastanza così autonomo, avere rapporti diciamo corretti con l'informazione, ma insomma quindi ognuno non deve determina fare il suo mestiere. Non determina, no, determinare ma non in modo esclusivo, via. Non credo che sia sul ponte di comando proprio in questo modo. Vabbè, abbastanza. Senta, ma chi sono i 101 che hanno bruciato la candidatura di Prodi? Oh, non mi faccia l'elenco di tutti e 101 perché abbiamo 5 minuti. Ma lei mi insegna che quando il voto è segreto ogni affermazione è sempre smentibile, in modo anzi indignato. Quindi non mi espongo. Ho detto una cosa che fra l'altro era scritto papale su Le Monde, che hanno affossato Prodi per abbattere Bersani, quindi c'è stata evidentemente una convergenza per chi non gli andava bene né Marini né Prodi e chi non andava bene Bersani. Senti, D'Alema è stato capo dei congiurati? Ma per l'amor di Dio, non capo, congiure, eccetera, eccetera. Niente, non lo no, so, tutti buoni, vi volete tutti bene. Ha detto che non è stato così e prendo per buono quello che ha detto. Non è che gli sarebbe stato bene nessuno che non fosse lui a D'Alema. No, via, non facciamolo così esclusivista. No, ecco, forse non si sarebbe escluso. Ma non diciamo si sarebbe proprio, escluso, però, va bene. Arriva a farne il solo recapito, non credo proprio. Senta, ma secondo quello che sa lei, anche Renzi ha fatto votare contro Prodi, oppure no? Boh, non lo so, ecco, io dico vabbè, questo. Un segretario che no, non vabbè, sa queste cose. Io so. Ma allora dica, ma no, se lo sa, dica. So in coscienza, no, non è, perché sono tutte cose smentibili. Ho detto, uno vabbè, può ragionare. Dice la sua opinione, no, uno sì, può ragionare, secondo me può sì. Ragionare, cavarsi fuori l'idea, insomma, certamente. 101 sono tanti, cioè, no, perché sento a volte dire è stato tizio, sono stati parecchi, no? Insomma, ecco, quindi, Renzi gli ha dato la nostra indicazione, me lo dica. Ma non lo so, questo mi ha dato francamente indicazione, non lo so. Carità. Il libro descrive questo libro. Vabbè, però dato che i radioascoltatori il libro lo leggeranno, ma insomma, vabbè, non me lo vuole dire, vabbè, ok, è troppo prudente. Una cosa che non ho capito, non so se non l'ha spiegata, che però è semplice, perché si è dimesso da segretario se non gli ha chiesto nessuno? Appunto, a differenza di quel che dice Renzi, dice che tutti le chiedono, nessuno le dà, c'è anche qualcuno che le dà senza che nessuno le chieda. Vede che il mondo è più complicato. Fissare un punto che il PD, siccome tocca a lui, è un grande partito, c'ha una grande responsabilità, non può comportarsi come si è comportato il Presidente della Repubblica, quindi deve cambiare su questo punto. Io ho voluto fissare questa cosa, dopodiché Minoli, io dopo 3 o 4 mesi avevo già detto che io sarei comunque andato via. Ecco, perché volevo dire che per la prima volta dopo 20 anni in Italia c'era qualcuno partito che dopo 4 anni diceva basta. Andava basta, senta, e arrivava un altro. Senta, lei dice che siamo al tramonto degli ultimi 20 anni, ma l'alba dei prossimi 20 dov'è? Cioè, dov'è l'alba dei prossimi 20? C'è da cercarla. Aspettiamola. C'è da cercarla, non aspettarla, c'è da cercarla. Perché ecco, lo sbandamento è molto. È Cupero l'alba dei prossimi 20 anni? Mamma mia, spero che sia un raggio di sole. L'alba è duro. E perché Cupero sì e Renzi no? C'ha un'idea di partito che per me è un po' più convincente. Sì. Ecco, Renzi ha detto che lei è spompo. Renzi come lo definirebbe lei? Forse sovraeccitato, quel che manca a me sarà lui. Senta, ma cosa ha fatto decidere Renzi correre la segreteria? Senta che cosa ci diceva al Festival della TV a Dogliani a maggio. Lei cita sempre un poeta francese che dice: bisogna saper forzare l'aurora, che è una bellissima frase. Sembra Dario Sclerovio. Sempre, 3 volte su 3. Ecco, forzare l'aurora, che è una bellissima immagine, adesso non è per lei avere il coraggio di buttarsi nella mischia e tentare di cambiare il PD? È una bellissima domanda. Io però credo anche che le idee in politica valgano più degli uomini. In questi ultimi 6 mesi io mi sono sostanzialmente candidato a tutto. Si candidasse anche a questo? Cioè, mi è mancato l'amministratore di condominio. Scusi, poi e mi a sono questo candidato. No, provi a rispondere seriamente. A questo non mi candido. No, ecco appunto, sei candidato a tutto, è la cosa più seria, no? No, non è la cosa più seria. Perché è la più difficile da fare questa. Beh, non che fare il Presidente del Consiglio contro il proprio partito fosse semplice, diciamo. Infatti. Però personalmente non credo di essere adatto a tutto. Il Partito Democratico deve fare una riflessione su se stesso. Il mio modello di Partito Democratico è un partito molto più liquido che solido, molto più legato a valori forti, ma a modalità leggere. Quindi non credo di essere la persona adatta. Ecco, insomma, ha cambiato idea. È lecito. Ma magari lo pensa ancora di non essere la persona adatta. Cioè, questa è molto cattiva. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Ma senta, che cos'è che le piace, che non le piace proprio di Renzi? No, io non so. Allora, sono tutti della famiglia e non ce l'ho con nessuno. Penso quelle cose che ha detto, cioè le cose che ha detto, cioè noi qui in Italia, non il PD, in Italia ha bisogno di collettivi nella politica, come hanno gli altri paesi. Vabbè. Non si può andare avanti sull'occasionalità, sulla personalizzazione, su partiti che vanno e vengono. Questo è il punto di fondo. Ma il ticket Renzi-Letta, lei ci crede che hanno fatto un patto? No? O finisce come Prodi e Veltroni? Ma il patto l'avranno anche fatto, ne avranno anche discusso, eccetera, eccetera. Certamente questo fatto abnorme, per cui ho cercato di smontare, che con una pratica, diciamo, di far coincidere, intendere far coincidere la figura di segretario di partito col candidato premier, che è una contraddizione, no? Quindi questa cosa bisogna chiarirla. No, vabbè, ma loro due ci crede che andranno d'accordo? Che hanno fatto un patto uno qua e uno là? Ma sì, cercheranno di andare d'accordo, ho detto. Ma crede, però, che sia attenzione possibile che le cose non portino poi oggettivamente, insomma anche Prodi e Veltroni pensavano di farcela, poi non ce l'hanno fatta. Non è che siamo fuori pericolo sotto questo profilo. Senta, questo no. Renzi alla Leopolda per la prima volta ha parlato della necessità di affrontare il nodo giustizia, almeno a partire dal problema della custodia cautelare. Ha ragione in pieno. Assolutamente ha ragione, ecco, in pieno. Ma le dimissioni di Caselli da magistrato democratica hanno fatto effetto? Ha fatto bene. Beh, vuol dire che qualcosa si muove per davvero. Ma insomma, aspetti, senta cosa dice la Boccassini. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Insomma, è un tabù da superare per la sinistra. Quello della Ma giustizia. C'è un fatto nuovo che si sta determinando. Col tramonto di Berlusconi bisogna che tutti si rendiamo conto, compresi i magistrati, che si interessa dei temi della giustizia, eccetera, eccetera, che a quel punto verrà fuori in modo ineludibile un'esigenza di riflettere su tutto questo impianto. Io mi auguro che magistratura, che hanno tutto il mio e il nostro rispetto, si carichino di una riflessione, di una proposta, di una diciamo presenza attiva, attorno a una riflessione. Però, non so se è il caso di dire autocritica, come dice la Bossi, qui non c'è bisogno di autocritica, qui c'è bisogno però di capire che dopo Berlusconi si deve aprire una pagina nuova. Senta, quindi sull'amnistia il presidente Napolitano ha chiesto al Parlamento di procedere e l'ha chiesto con insistenza. Lei è d'accordo? Sono d'accordo. Napolitano ha messo lì 4-5 possibilità. Sì. Il tema delle carceri è un tema vero. Che va affrontato subito. C'è poco da fare se abbiamo un minimo di rispetto di noi stessi, della nostra civiltà giuridica e umana. E quindi la strada dell'amnistia e dell'indulto è una strada da percorrere immediatamente, intanto, perché se si aspetta la legge... Naturalmente qui si sollevano sempre i problemi, quelli con letti bianchi, eccetera. Basta andare, come ha detto Zagrebeschi, basta andare in proporzione, va bene? Quali sono i reati che affollano le carceri? Benissimo, in proporzione troviamo tecniche per evitare la affollamento. Si vedrà che i colletti bianchi, quei pochi che ci sono, rimangono dentro. Senta, ma il presidente Napolitano ha troppo potere oppure semplicemente occupa un vuoto lasciato dalla politica? Ma lei che sa che fa la storia, sa di storia, sa benissimo che il potere del presidente, adesso ne parlerete, credo, ecco, sono molto elastici e possono essere anche pertinenti nei momenti difficili, anche incisivi. Napolitano sa usare sia la mano leggera, sia la mano diciamo incisiva, secondo le necessità, e quindi io comunque continuo a dire, Napolitano, posso dire una sola cosa, aveva già fatto gli scatoloni, bisogna prendergli atto di questo. Ecco. Senta, di fronte al turbo capitalismo finanziario di oggi, che distrugge classe media e lavoratori, la sinistra ce l'ha la responsabilità di averlo assecondato invece che contrastato come avrebbe dovuto? Quando una roba è turbo è difficile fermarla con le mani nude, spesso la sinistra ha avuto le mani nude, però bisogna riconoscere che almeno un pezzo della sinistra è stato un po'... Corriva ha pensato di abbellire le ricette della destra piuttosto che costruirne di altre. Senta cosa dice Papa Francesco a proposito del turbocapitalismo. Non è un problema soltanto dell'Italia o di alcuni paesi d'Europa, è la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico, che ha al centro un idolo che si chiama denaro. È d'accordo? Sì, al Centro Unito si chiama denaro, stiamo parlando in particolare della finanza, perché certo, voglio dire, il denaro è anche una cosa con cui si vive, cioè, si campa, come sa benissimo, credo, meglio di me, Papa Francesco, ecco. Quindi io non demonizzerei il denaro, demonizzerei chi lo fa troppo facile a scapito di chi se lo vede togliere dalle tasche. Senti, ma da dove si riparte allora? Appunto da qua, economia reale, lavoro, imprese, economia reale. Non c'è altro punto di partenza, e l'altra cosa è moralità, legalità, civismo, serietà. Senta, non raccontare balle, non raccontare più favole, perché di favole si muore, questo paese muore di favole. Senta, un'ultima domanda. Che cosa c'è nel suo di futuro? Boh. Grazie, grazie, grazie. Mix 24. Siamo in diretta, Mix 24, sono le 9.38. Al mio fianco, come sempre, Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi, per le vostre notizie, testimonianze, riflessioni, richieste. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. Adesso parliamo di cosa bolle in pentola in Italia e nel mondo, ma prima il titolo che fareste per l'intervista di Bersani. Mario Secchi. Ha smacchiato il sindaco. Pietrangelo? Sì a cancellieri, no a magistratura democratica. Accidenti. E perché questo ha detto? Ha detto questo. Ha detto che proprio Caselli ha fatto bene a lasciare magistratura democratica. E ha detto che avrebbe votato cancellieri e non, come Renzi ha detto, andare contro cancellieri. E quindi ha smacchiato il sindaco. Ammazza il titolone, lungo tre pagine. Insomma, allora, Mario, oggi cosa bolle in pentola? Sigla! Caro Minoli, la France. Tu hai visto cosa è successo? Cosa è successo? È successo che l'agenzia di rating americana Standard & Poor's ha declassato il giudizio sul debito sovrano della Francia. Ah, quindi anche i cuginetti se la passano male. Molto male. Incapacità del governo parigino di attuare le riforme a causa dell'alto livello di disoccupazione. Cari amici, in Italia è tempo di consigli nazionali, di congressi, di governisti e non. E dunque? Allora, Quagliariello, stamattina, parliamo del PDL ovviamente, certo. Che cosa ha annunciato? Ha detto che se il Consiglio nazionale del PDL non troverà un accordo sulle linee politiche e sul governo, sarà scissione del partito. Commento di Berlusconi. Ma cosa fate? Tu capisci che il clima è davvero grave. Ma tu pensi che i nostri radioascoltatori riescano a capire davvero che queste dinamiche interne dei partiti non sono cose che allontanano definitivamente? Allora, sono cose in un momento come questo, in cui c'è la tentazione di essere... Sono cose che allontanano, va da sé, perché sai, una cosa però del mondo tu dici reale. La dinamica interna reale della politica è questa. Giovanni, l'altra volta noi discutevamo dietro le quinte di questo programma insieme a Pietrangelo, che è ovviamente qua con noi, dell'Italia come laboratorio politico dell'Occidente, nel bene e nel male. Noi siamo ancora questo, cioè noi abbiamo il più grande scrittore politico di tutti i tempi, Machiavelli, e continuiamo. Siamo sui ad figli, avere... nipoti, esatto. Anzi. Renzi, vabbè, l'hai visto, Renzi sulla cancellieri, si apre un baratro tra governisti del PDL, commenti da interni del PD, li vuoi sentire, quelli della fase, della fase fuori? Senti. Amici miei, allora è chiaro che qua però c'è qualcosa di più, forse c'è del comico, c'è un Salamino. Ah, allora vai con Salamino. Sì. Dovrei dire anche Cotechino in omaggio al nord. Aspetta che dico solo 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, 349 238 6666. andiamo col Cotechino. Allora, puntualmente, anche ieri è scoppiato uno scandalo in Sicilia legato alla sanità o alla salute che dir si voglia, e cioè la regione siciliana ha finanziato una clinica che si è scoperta essere molto molto vicina a un deputato di quelli trasformisti. Che beh, dal non è centro... così strano, no? Sicilia è strano perché, essendo governata dal paradiso in terra, essendo governata adesso da uno degli uomini più angelici del e mondo, più deliziosi, essendo governata quindi dalla virtù personificata, meraviglia assai, anche perché questa delibera è stata firmata nottetempo d'estate, quasi a non voler far accorgere nessuno. È e stata quindi? Smentita categoricamente, totalmente si è smentito, non esiste. Allora? E allora il sito Live Sicilia tappete, o comunque con un colpo di scena ha fatto vedere il documento e la firma. La di firma chi? Dell'assessore alla salute, così si dice lì. E chi è? Lucia Borsellino, figlia di cotanto martire, figlio di cotanto eroe, che ha firmato questa delibera. A sua insaputa? E su cui è calato un silenzio totale. Beh, era vacanza. Un silenzio totale di tutto il Partito Democratico, di Crocetta ovviamente, che l'ha smentito ma adesso non può più smentire, e nessuno che osa dire parola. È un po' sembra di essere ritornati all'atmosfera dell'omertà, che una volta era lo scudo della mafia, e adesso l'omertà, signori miei, è diventata invece lo scudo dell'antimafia. Ragazzi. Allora, andiamo avanti con le bolle. Intanto ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Mario, un'altra bolla. Tra le pieghe delle cose americane che guardo, c'è il successo di Twitter, ok, 73%, vedremo quanto dura. Parlo della quotazione del titolo. Bolla. Però c'è una cosa interessante, cioè tu hai visto, no? Telecom è passata nelle mani di Telefonica. Bene, cominciano ad alimentarsi i rumors negli Stati Uniti sul fatto che Telefonica dovrebbe avere un ribasso del prezzo dei suoi titoli, diventare contendibile, cioè scalabile, da parte di chi? Degli americani, di AT&T, che devono rispondere alla sfida con Verizon. Quindi, se gli americani di AT&T prendono Telefonica, Telecom diventa americana. Guarda un po'. Il nostro esercito diventa stelle e strisce. Era il piano americano. Certo, era il sogno di Pisciotta. dei soldati del Levis. Si torna alla vecchia. Di Salvatore Giuliano. Al vecchio piano di Provera. Sì, vecchio piano di Provera. Che non era sbagliato, detto tra noi. Ma non è, scusa, non somiglia tanto. Non era sbagliato, cioè il problema che le comunicazioni sono l'esercito moderno e quindi sono uno strumento di difesa per una nazione, è anche vero. Esatto. Nessun paese europeo ha mollato le sue telecom. No, ci sarà una ragione. Certo. Le controlla, quindi soltanto noi stiamo perché noi non abbiamo separato la rete prima, non abbiamo fatto un sacco, come al solito, sacco di cose. Io per non sbagliare mi informo a Montelepre, vediamo che è successo. Senti, a proposito di cose che riguardano il buttafuoco. Devo dare la pubblicità. La viabilità, dopo la viabilità parleremo di televisione di qualità e continueremo a parlarne qui in studio. Mix 24. Siamo in diretta, sono le 9:47:50. Ricordo il numero 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Abbiamo al telefono Piero da Milano. Piero. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Ci conosciamo, sì. No, però ha usato un tono confidenziale. Ogni volta che parliamo con i nostri ascoltatori ci fa piacere. Mi dica. Volevo dire che ho sentito prima l'intervista che ha fatto con Bersani. Sì. Ma secondo me, se fosse stato così lucido, pacato, intelligente, non si fosse fatto coinvolgere nel bailam mediatico con il guitto di Arcore, durante la campagna elettorale avrebbe vinto a mani basse. Ah, questo è interessante, gli gireremo la sua telefonata. Grazie, grazie Piero da Milano. Allora, Mario, tu hai ancora, prima di parlare di Simonelli, dobbiamo parlare di televisione di qualità. È pronto, professor Simonelli? Buongiorno a tutti. Buongiorno, intanto... Una cosa molto importante, che eri a Ginevra per i colloqui sull'atomica iraniana, le cose stanno andando bene dopo un chiarimento con Netanyahu, poi ne ho una leggera, ma ce la teniamo per la fine. Dopo, Pietrangelo, ma Eccomi. Ieri sera dov'era il canone? Ieri sera? Sì. In una puntata deliziosa di 8:30, no, dove Lilli Gruber presentava un libro. È vero. Libro. Come si chiamava? Aspetta, non mi ricordo. Beh, visto. Uno... Un professore famoso. Ferrari, di Ferrari, no? Ferrari. No, Ferrari. No, allora ho sbagliato. No. Fazio. No. Di chi? No. Floris. Ho sbagliato giorno. Ti sei confuso. Ah, ma tu stai aspettando questa sera, perché aspetti la puntata nuova di Virus. Ho letto il tuo pezzo sul foglio e quindi immagino che tu stia aspettando con ansia la puntata nuova di Virus, alla quale facciamo naturalmente tanti auguri e speriamo che vada bene. Mario? Il canone? Sì, tu? Chi si ricorda? Io stavo lavorando come un ossesso. No, io posso dire perché sono rimasto impressionato. Non ho guardato. Io sono rimasto impressionato, ho visto una puntata... Anzi, no, c'è, scusa. No, il Dracula di Francis Ford Coppola. Chi era questo libro? Dillo, ma è impressionato, l'ho sentito tre giorni fa, quattro giorni fa, cinque giorni fa, comunque lo vedo tutti dappertutto, comunque anticipato sempre per... Non si può dire. Non lo diciamo. No, non lo diciamo. È lui. Professore... Lui è solo lui. Ok. Professore, professore, lei dove l'ha visto il canone ieri sera? Ieri sera è una serata molto particolare, perché c'era un sacco di canone. Mi spiace per quelli che lavorano troppo la sera e non se ne accorgono. Prof, è colpa di Minoli. Sì, sempre colpa mia. Allora, cominciamo in ordine. C'era canone su Rai 1, sì, perché la fiction, una grande famiglia, snobbata un po' dalla critica e ancora non... Quello capita sempre, capita sempre. È una gran bella fiction, sì, contemporanea, con molti accenni anche che di solito nella fiction non si vedono, ben recitata da un grandissimo gruppo di attori che, se poi evitasse di andare a porta a fare discorsi pretestuosi, farebbe bene. Ma vabbè, però diciamo che una cosa bisogna dirla con chiarezza, la fiction... questa nuova stagione della fiction è molto interessante. Poi c'era canone su Sky Cinema, da un paio di sere in prima serata c'è un film veramente da servizio pubblico che si chiama Il Comandante La Cicogna, un film di Soldini che racconta una storia non particolarmente originale, che si svolge a Torino, la solita famiglia un po' disastrata, i figli che fanno casino, le mogli, qui c'è anche una moglie che è morta, insomma c'è la solita storia. Sì. E poi? Se non che tutto questo viene commentato dalle statue dei grandi italiani, Leonardo, una bella idea, insomma. Leopardi, Garibaldi, che guardano queste miserie, questi disagi e leggono, dicono cose tratte ovviamente dai loro originali scritti. Un'idea veramente geniale, un'idea che, insomma, sul servizio pubblico ci avrebbe anche un senso. Ci sarebbe stata. Poi mi dice uno di... Ancora una al volo? Uno studente, Davide Balconi, che ho allertato, mi dice che anche il programma musicale su Mina è una cosa interessante. E dov'era? Su Rai 2. Bene. Non c'è solo X Factor per fare musica, no? C'è anche questo modo di ricordare i nostri grandissimi. Grazie, professore. Naturalmente, dopo il giornale radio e la storia continua con la storia di Giovanni Leone, oggi storia curata da Marina Milone, ma noi, prima di chiudere e prima, se abbiamo tempo, di sentire l'ultima bolla, vorremmo mandare il nostro tormentone, perché finché non ci sarà la legge di stabilità noi ne parleremo, perché non abbiamo le idee chiare. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce, ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Noi continuiamo a mandarla questa voce, ce l'hanno chiesto i nostri ascoltatori, di chi è questa voce? Questa voce è di Sara Tardelli, che cura la parte delle notizie della trasmissione. Un ultimo, abbiamo tempo ancora, sì, per un'ultima bolla, ma una cosa leggera. Idolo pop Lady Gaga va nello spazio, se vuoi ti puoi prenotare anche tu, Giovanni, e canterà questa. Ma resta lì almeno, mi auguro. Può darsi. Come la va con, i dettagli sono che va con Virgin Galactic, Sir Richard Branson, e si può prenotare online il volo, minori, ah, se sì? vuoi. Andiamo? Sì. Andiamo. Beh, nello spazio. No? Nello spazio. Sì, in diretta dallo spazio. Volevamo farla in diretta dall'Africa, ma però ce la faremo in diretta dallo spazio. Dall'Africa nel senso dell'Africa orientale? Naturalmente, l'Africa orientale, certo. Ovvio, certo. No, quindi, quella nera ci piace un po' di più. Prendiamo le sahariane. Bene, allora ricordo tra pochissimo la storia di Giovanni Leone, curata da Marina Milone. A dopo.